Allora, 5 minuti a mezzogiorno, 87.900 la frequenza, Radio Onda Rossa, lo abbiamo annunciato ormai un paio di ore fa. Oggi abbiamo previsto di presentare il nuovo numero della rivista Zapruder, rivista di storie in movimento, giunta al suo 23° numero, e in questo caso l'impegno degli studiosi che appunto si occupano di questa rivista è stato quello di approfondire un tema a noi molto caro, ne abbiamo spesso parlato da questi microfoni. Brava gente, memoria e rappresentazioni del colonialismo italiano, questo è il titolo del numero di Zapruder, che chiaramente potete trovare e acquistare. Il numero sarà tra l'altro presentato in un'iniziativa sabato prossimo. Noi ne parliamo con una curatrice di questo numero, cioè Elena Petricola. Ciao Elena. Ciao, buongiorno a tutti e allora, tutte, ciao. Ciao, senti, insomma, io direi, noi di questo tema, come dicevo, ce ne siamo occupati molto, lo abbiamo fatto anche la scorsa settimana presentando un'iniziativa che prendeva le mosse, insomma, dal 150° anniversario dell'Unità d'Italia, cercando di svolgere una controstoria dell'imperialismo nostrano, una controstoria di cui chiaramente si sente tanto bisogno, nonostante il fatto che poi tanti studi nell'arco degli ultimi 30 anni, insomma anche 40, sono stati svolti su questa materia. Certo. Questo numero è chiaramente frutto dell'impegno di molti studiosi, giovani e meno giovani, che insomma hanno condensato in esso una molteplicità di temi che credo rappresentino le possibili strade nel campo della ricerca storica su questo tema. C'è quindi una varietà di angolazioni, diciamo, che immagino però siano sottese da una unicità di indirizzo. Io quindi ti chiederei anzitutto di dirci brevemente qual è stata la gestazione di questo numero, perché so che ci sono stati tanti momenti di preparazione, poi se anche tu puoi farci una breve presentazione di carattere generale. Ma certo. Dunque, intanto Zapruder è una rivista di storia che viene, diciamo, prodotta, fatta dall'Associazione Storia e Movimento. E questo numero in particolare è nato appunto dal desiderio di capire in quale modo si è costruita la memoria dell'invasione coloniale italiana e come mai ancora oggi ci facciamo i conti fino a un certo punto, nel senso che appunto parliamo molto di italiani brava gente, di un mito civilizzatore del colonialismo italiano, quando vediamo, non so, dei programmi in televisione o leggiamo pubblicistiche, insomma riviste divulgative, spesso i discorsi sono un po' ambigui su questo, diciamo, su questo passato. E per noi era sicuramente importante riuscire a trovare un modo per attraversare non tanto la storia del colonialismo, che appunto, come hai detto tu giustamente, è stata in parte e ancora sta venendo ricostruita da alcuni storici e storiche a partire dagli anni 60, cercando appunto di capire in quale modo l'Italia è stata nei contesti coloniali e, diciamo, oltre alla storia politica delle relazioni internazionali, poi gli studi si sono arricchiti di altre sfaccettature, altre sfumature. Pensiamo anche al rapporto tra appunto la storia politica e la storia di genere nel contesto coloniale, che ha sicuramente aperto altri percorsi di ricerca. E per noi quindi era importante riuscire a capire in quale modo non solo si fosse svolta la storia, cioè l'esperienza coloniale in senso stretto, ma anche il modo in cui poi è stata rielaborata, diciamo, nel dopoguerra o nel nostro periodo postcoloniale. E per fare questo chiaramente avevamo bisogno di fare ricerca, non che questo non sia stato fatto, ma diciamo rispetto agli studi storici in particolare non c'è molta letteratura, come si dice, non ci sono tante pubblicazioni, e quindi per noi era uno stimolo, diciamo, a raccogliere un po' questa sfida per certi aspetti, che era quella di cominciare a indagare, ad aprire delle piste di ricerca sul modo in cui a livello istituzionale e non istituzionale è stata rielaborata la memoria del colonialismo italiano ed è stata poi raccontata, espressa, rappresentata. Di qui quindi l'idea di lanciare all'interno della nostra associazione Storia in Movimento un progetto di ricerca collettivo, facendo in modo quindi che non solo se arrivasse una pubblicazione di Zapruder, come di solito facciamo, raccogliendo diciamo articoli originali, ma che nascono da lavori di ricerca già svolti in qualche modo, quanto piuttosto di fare proprio un lavoro di ricerca originale, cominciare a pensare alle fonti, cominciare a pensare in quale modo insomma articolare l'argomento, come portarlo avanti con un gruppo di ricerca. Questi erano un po' gli aspetti che ci interessavano. E quindi abbiamo fatto un vero e proprio lavoro di gruppo. Abbiamo discusso attraverso alcuni seminari, facendo un lancio, una proposta che è circolata sia all'interno dell'associazione che al di fuori, volendo appunto stimolare la possibilità di costruire un percorso di ricerca collettivo che ci portasse poi alla pubblicazione di un numero di Zapruder. Ora, questo chiaramente implicava discutere poi quali potessero essere le linee di ricerca, quindi in quale modo investigare, sondare, come si è costruita la memoria, diciamo una memoria collettiva nazionale riguardante il colonialismo italiano. Abbiamo individuato alcune possibilità, alcuni possibili diciamo percorsi di ricerca, quindi in quale modo soprattutto fosse stata rappresentata questa esperienza. Allora abbiamo immaginato che potesse passare attraverso il cinema, i fumetti, la letteratura, ma anche attraverso la costruzione invece di discorsi istituzionali, attraverso la memoria dei luoghi, attraverso i monumenti, insomma attraverso una serie diciamo di percorsi che in qualche modo ci dessero un quadro, un primo quadro iniziale di appunto rappresentazione di questa memoria, di questa esperienza coloniale italiana. E l'esito è stato appunto questa pubblicazione, che è un numero di fatto speciale della rivista, che tra l'altro appunto presenteremo questo sabato a Roma alla Casa delle Culture a Trastevere, e dal quale diciamo emergono appunto questi percorsi di ricerca. Abbiamo diciamo che poi la rivista si articola in diverse rubriche. Quella iniziale la chiamiamo Zoom perché è una panoramica con diciamo approfondimenti più lunghi sui temi che in qualche modo caratterizzano il numero. Allora abbiamo articoli di Clara Ottaviano che parla degli elementi di continuità dei cinegiornali dell'Istituto Luce dal periodo coloniale al periodo chiamiamolo postcoloniale o comunque nel dopoguerra, a un articolo di Antonio Morone sul Comitato per la Documentazione dell'Opera dell'Italia in Africa, quindi un lavoro invece su un aspetto istituzionale di come è stato costruito il discorso pubblico sulla questione del colonialismo. Abbiamo poi un articolo di Giulietta Stefani che invece ci parla della letteratura da Flaiano, da Tempo di uccidere, fino alla letteratura diciamo attuale degli ultimi anni, ambientata ovviamente nel contesto coloniale. E poi un lavoro di Luca Acquarelli che ci parla dell'obelisco di Aksum, questa volta non tanto in termini di relazioni internazionali quanto a livello simbolico nel contesto urbano, ovviamente a Roma, e il modo in cui la stele di Aksum è stata utilizzata a segnare la memoria dentro uno spazio e insomma il modo in cui è stata presente e poi assente, che dibattito pubblico è scaturito da questa presenza e assenza. Senti Elena, prima che vai avanti diciamo sì, nell'elencare gli interessantissimi pezzi di cui si compone mm-hmm. questo numero della rivista, volevo insomma stabilire invece una sorta di contraddittorio, certo, partendo anche da alcune riflessioni che voi svolgete nell'editoriale. Insomma, abbiamo sì, detto che comunque tanti studi sono stati fatti, a partire da quelli pionieristici di Del Boca, per passare a quelli di Rochat, a Nicola Labanca, eccetera eccetera. È chiaro però che insomma il lavoro da compiere ancora è molto lungo, non ultimo perché insomma negli ultimi decenni abbiamo assistito anche a una si può dire sorta di rivalutazione storiografica dell'intero periodo fascista, insomma, per meriti o demeriti forse della scuola De Feliciana, che insomma hanno teso a sostanzialmente ridurre gli aspetti, diciamo, negativi di quell'esperienza storica al massimo ai suoi eccessi iniziali, oppure insomma alle scelte di alleanza che sono state compiute. Eppure appunto degli studi sono stati fatti, ma non scalfiscono il senso comune. Voi infatti nell'editoriale scrivete: negli ultimi decenni, insomma, la ricerca storiografica si è sforzata di colmare le precedenti lacune con risultati spesso apprezzabili, ma ciò non significa tuttavia che essi riescano con facilità a incidere sul discorso pubblico. E questo mi chiedo, in effetti, è perché sul discorso pubblico incidono anche tanti altri strumenti, non ultimo i media sicuramente, e credo sia la ragione particolare, oltre che ovviamente la letteratura, credo che sia la ragione specifica per cui alcuni dei pezzi della rivista sono appunto dedicati anche ai riflessi, ad esempio, della pubblicità. C'è un articolo di Sonia Sabelli sulla rappresentazione del corpo femminile nelle pubblicità, oppure quello di Giulietta Stefani rispetto alla letteratura, all'interno della quale insomma permangono ancora degli stereotipi che rappresentano un po' un'eredità del nostro passato coloniale, o delle ragioni che lo hanno giustificato, no? Certo, ma guarda, rispetto a questo le cose da dire sarebbero veramente tante, perché ovviamente, diciamo, colonialismo e storia del colonialismo chiamano in causa poi gli aspetti di continuità e il fatto che comunque l'Italia continua ad avere un ruolo nel Mediterraneo e rispetto ai contesti che sono stati colonizzati, comunque un ruolo particolare. Non è un caso, insomma, che questa riflessione sia partita, diciamo, la riflessione su questo numero di Zapruder sia partita anche dal, insomma, constatare che nello spazio pubblico, nel discorso pubblico e politico, chiaramente venivano fuori elementi appunto stereotipizzanti, ma anche, insomma, questioni molto grosse legate per esempio agli accordi tra l'Italia e la Libia. Questo, insomma, credo sia sotto gli occhi di tutti, e certamente riattiva, no? delle questioni molto importanti, nel senso che la rielaborazione della memoria delle responsabilità dell'Italia con il contesto libico, e invece gli accordi con la Libia sulle migrazioni, sul controllo, insomma, dei flussi migratori, chiamano in causa ambiguità molto grosse, e questo sicuramente è stato di stimolo, molto di stimolo a riflettere sul perché, insomma, della possibilità di mantenere stereotipi così forti. E così anche su, ovviamente, una situazione che riguarda sempre l'attualità e che ha a che fare chiaramente con i flussi migratori, con i rapporti che abbiamo con gli altri e le altre provenienti da altri contesti, diciamo al di fuori dell'Italia, al di fuori dell'Europa, ma e questo è sicuramente l'aspetto, diciamo, di attualità, tanto per, insomma, individuare alcuni elementi. L'elemento di carattere più, diciamo, scientifico, storiografico, come... Ne aggiungerei un altro, Elena, chiaramente sì. Il fatto che il nostro paese è presente in tante parti del globo impegnando le sue forze militari, e quindi anche a parziale giustificazione di questa presenza è evidente che c'è un interesse a celare e a omettere quelle che sono state le brutalità del nostro passato coloniale, no? No, ma certamente l'uso dei gas e la costruzione di campi di concentramento, cosa che secondo me non è così veicolata ancora, anche se gli storici e le storie che hanno fatto luce su questo sono responsabilità che hanno a che fare con, appunto, un indirizzo estremamente violento, brutale, gerarchizzante nei contesti coloniali. Le analogie con l'oggi ci possono essere nel momento in cui sicuramente si costruisce un discorso, una retorica che ha a che fare con, diciamo, la bontà di alcune missioni o della presenza dell'Italia appunto in contesti dove, diciamo, conflitti e difficoltà, insomma, richiedono anche solo mediazioni, ma chiaramente queste poi, insomma, si legano a un altro tipo di atteggiamento. Però oltre a questo, che sicuramente è vero, c'è poi tutto il discorso invece legato a quello che dicevi tu prima, cioè al fatto che in questo contesto attualmente il discorso pubblico veicolato dai media è un discorso in parte ancora molto legato a questa retorica appunto del mito buonista, del fatto che così il nostro colonialismo è rimasto comunque qualcosa che ha a che fare con la civilizzazione dell'altro, dell'altra, perché poi spesso c'è molto il discorso economicista, cioè l'Italia è andata a invadere insomma la Libia, l'Etiopia, per questioni prettamente economiche, forse un po' questo passo, ma poi in realtà ha portato molto, ha costruito le strade, ha fatto del bene alle persone. Questo insomma chiaramente invece è molto più complesso di così, e questo emerge sicuramente dagli studi e dalla volontà in qualche modo di insomma portare un po' di luce su questa esperienza. Infatti in uno degli articoli c'è una cosa che a me piace molto, che insomma da quale parte l'autrice, si chiama Chiara Ottaviano appunto, lei riporta la lettera di una persona che scrive al giornale una volta firmati gli accordi a Bengasi il 30 agosto del 2008 tra l'Italia e la Libia. E lui racconta: sono nato nell'immediato dopoguerra, ma da quello che ho appreso dalla scuola, dalla storia, dalle mie letture, da mio padre, dai vecchi del paese, pare che gli italiani in quella colonizzazione hanno fatto del bene e basta. Poi quelli che erano rimasti si erano installati lì a continuare a far progredire i beduini. Gheddafi, dopo di averli depredati di tutti i loro averi, li ha rispediti in Italia sotto forma di profughi. Ora dobbiamo noi risarcire loro? Mi sa tanto che il senso degli affari del presidente questa volta abbia proprio toppato. Insomma, mi sembra che appunto questo signore metta in luce quali sono, diciamo, gli agenti di informazione, di produzione di discorso pubblico sul colonialismo: la scuola, la storia, le letture, le persone, quindi la memoria e insomma tutto ciò che contribuisce a creare discorso su questo. Quindi mi pare che più che, come si è più volte parlato, insomma, più che silenzio e missioni, ci sia piuttosto da riflettere sulla volontà di costruire continuità, ovviamente depotenziando quegli aspetti che sono stati più difficili anche da trasmettere, da rappresentare, invece di quanto insomma sia un'esperienza legata poi chiaramente alla violenza, all'invasione violenta di territori e certamente al rapporto gerarchico violento con i nativi e le native. E in questo, dicevo prima, il discorso puramente economicista non credo che spieghi altri motori che hanno a che fare anche con una costruzione insomma di sperimentazioni sociali. In questo, secondo me, il discorso di genere ci aiuta molto insomma a capire anche questo, di sperimentazioni sociali nelle quali ovviamente l'Italia ha avuto un ruolo molto forte, molto importante. Non è un caso che appunto tanto Nicola La Banca quanto Giulietta Stefani in particolare mettano in luce questo, cioè il fatto che la descrizione dell'altro, in particolare dell'altra, sia molto legato a questa costruzione di gerarchie nel contesto coloniale, che questo però rimanga attivo poi nelle descrizioni, nella letteratura. E sicuramente è una cosa che rimane attiva anche a livello di memoria collettiva, di rappresentazione appunto nei media, come dicevi prima, e scalfire tutto ciò non è assolutamente facile. Semplice. Certo, tu facevi riferimento poi al discorso pubblico. Sappiamo benissimo che l'uso pubblico poi della storia, soprattutto di alcuni dei suoi aspetti maggiormente controversi, passa, come si diceva, anche e soprattutto per le pillole in storia prodotte dalla TV. Ci sono invece ambiti che diciamo dovrebbero garantire un approfondimento oltre che la cosiddetta istruzione. Certamente uno di questi è la scuola, ma anche lì i manuali in uso presso gli istituti scolastici, certo, insomma, sono pieni zeppi, insomma, di omissioni o relativizzazioni. C'è un articolo che, correggimi se sbaglio, mi pare sia di Andrea Tappi, sì, che sì, si occupa di questo. Io dico, insomma, ma sostanzialmente mi sembra che fino agli anni 60 i manuali non hanno subito alcun rinnovamento di contenuti rispetto all'epoca fascista. C'è poi stato, diciamo, a partire dagli anni 80 uno sforzo quantomeno di diciamo non rimuovere completamente le atrocità commesse dagli italiani in terra d'Africa, però insomma ancora in manuali abbastanza recenti, ne cito uno, quello di Villari, insomma, comunque, ad esempio, come sottolineavi anche tu, la faccenda dei gas è praticamente omessa, anche se poi nei rimandi bibliografici il rimando al testo di Del Boca, i gas di Mussolini, è presente. Quindi comunque nei testi permangono ancora queste omissioni. Certamente, ma guarda, l'articolo di Andrea Tappi e Giuliano Leoni, che appunto sulla manualistica in uso nelle scuole, era proprio volto a cercare di capire come è cambiato, insomma, la costruzione del discorso storico a questo punto sul colonialismo. E certamente era uno degli indirizzi che ci eravamo dati, cioè tra i vari percorsi da ricostruire, quello all'interno delle scuole ci pareva fondamentale, proprio perché appunto la formazione, la scuola e quindi la costruzione di una memoria collettiva passa ovviamente attraverso la manualistica scolastica. E effettivamente loro hanno lavorato molto su una grande quantità di manuali, proprio per capire in quale modo diciamo il discorso storico si trasformasse. Ho detto benissimo, insomma, c'è un passaggio soprattutto verso gli anni Ottanta, ovviamente che beneficia delle ricerche storiche che vengono fatte sulla storia del colonialismo, ma appunto rimane comunque una difficoltà a rompere, diciamo, questo mito. Io credo però che questo mito della brava gente, dell'italiano bravo, di un colonialismo buono, c'è chi dice facilone, o comunque, diciamo, più duro, più aggressivo durante il fascismo, perché ormai è associato al fascismo, del fascismo che quindi è stato stigmatizzato, è stato, diciamo, superato, è un colonialismo un po' meno cattivo invece dell'età liberale. C'è anche questa distinzione, cioè emerge un po' questo discorso, e ovviamente ricostruire il tutto, veicolarlo e comunque fare i conti con questo passato, non solo nei termini appunto di un passaggio edulcorante, diciamo, ammorbidendo la durezza di questa esperienza, ma veramente mettendo in campo quali sono stati gli obiettivi anche appunto durante il periodo liberale. Pensiamo che, insomma, alla sconfitta di Ado per l'Italia è stata una grossa ferita dal punto di vista identitario per gli italiani, per l'identità italiana, non solo a livello politico, di politiche internazionali, di eventuali scambi economici. Evidentemente tocca dei punti molto delicati da questo punto di vista, e certamente se pensiamo al dopoguerra, al modo in cui l'Italia è uscita dalla seconda guerra mondiale, come ha affrontato anche la questione della, chiamiamola tra virgolette ovviamente, la perdita del suo impero, e questo certamente ha a che fare con la ricostruzione poi di una retorica nazionale che chiaramente ha ricostruito l'identità italiana nel passaggio dal fascismo alla Repubblica, e su questo ha dovuto fare i conti. Queste persistenze rimangono, e sicuramente siamo affezionati, dico siamo nel senso come collettività legata al nostro contesto nazionale, siamo affezionati comunque a delle rappresentazioni, sono dure a morire, e per farlo ci vuole il concorso di più agenti di formazione, informazione, di appunto legati alla costruzione di discorso pubblico, però capisci, insomma, capiamo che è una, un'operazione articolata, complicata e che chiaramente incide profondamente su aspetti delicati di costruzione dell'identità nazionale. Sì, tra l'altro, insomma, hai fatto benissimo anche a sottolineare questa, diciamo, questo scarto che effettivamente esiste rispetto al colonialismo di marca fascista e quello invece di marca liberale, e a questo devo dire evidentemente non è estraneo anche, diciamo, l'atteggiamento, le posizioni che lo stesso Partito Comunista, il PC, ha avuto, certo, nel corso del tempo. Io, insomma, mi sono imbattuto in articoli apparsi sull'Unità negli anni 50, quando ancora si discuteva, cioè, o meglio, alla fine degli anni 40, quando si discuteva sulla amministrazione fiduciaria della Somalia, e insomma, davvero ho trovato delle cose incredibili. Ne avevo selezionato per l'appunto uno, perché mi sembrava molto molto indicativo, in cui Ruggero Greco afferma: non possiamo negare, non ci conviene negarla questa verità, che il fascismo, ad esempio, interruppe brutalmente il processo di democratizzazione della Libia, iniziato dai governi democratici nel 21-22. Oppure, ancora avanti, il fascismo irrise le nobilissime intenzioni di Rossi e Amendola, le quali rispondevano a sentimenti di fraternità del popolo italiano verso quello arabo, eccetera, eccetera. Insomma. E beh, insomma, certo. No, senti, ma tra l'altro, sì, scusami. Sì, sì. Vai, dimmi. No, dicevo che tra l'altro, appunto, una delle cose che avremmo voluto fare era proprio quella di scandagliare, insomma, il discorso della politica istituzionale, non solo, anche di altre culture politiche extraparlamentari, giovanili e quant'altro, ma insomma questo è mancato di fatto, diciamo, anche nell'editoriale, proprio perché, essendo basato su un'attività volontaria di ricerca, come si dice, gratis, quindi chiaramente alcuni pur interessati, alcune pur interessate a fare questo discorso, alla fine non hanno potuto partecipare, e l'idea era appunto di lavorare sul PC, di lavorare sulla cooperazione internazionale, di lavorare su le culture giovanili degli anni 70, degli anni 80, sull'internazionalismo. È ovvio che, cioè, come dire, siamo tutti coinvolti in qualche modo, nel senso che è probabile, noi lo possiamo ipotizzare, ma tu stesso, appunto, adesso giustamente facevi riferimento a un discorso all'interno del Partito Comunista, sicuramente c'è un concorso a valutare la situazione, soprattutto in dopoguerra, e credo non solo, in termini appunto di equilibri, convenienze e anche appunto dentro questo mito edulcorante, perché che emerga nella memoria che c'è un colonialismo fascista più, diciamo, cattivo e un colonialismo liberale meno cattivo, meno violento, ovviamente è una cosa che non ha poi di fatto un riscontro nella storia, ma c'è piuttosto un tentativo, mi pare, di ricostruire a posteriori una memoria che in qualche modo appunto depotenzi quegli aspetti che sembrano più condannabili, insomma, e questo, l'aggancio col fascismo, sicuramente può permettere di farlo. Poi chiaramente sono memorie più che memoria unica spesso, e anche questo è complesso, per cui con questo lavoro che abbiamo fatto per Zapruder, la pubblicazione di questo numero, si vuole un po' lanciare, diciamo, anche uno stimolo negli ambienti della ricerca e non solo, ovviamente, perché si continui, insomma, a lavorare su un periodo in cui di fatto è stato cruciale poi ricostruire, rielaborare questa memoria, questa esperienza, e insomma arriva fino ai nostri giorni, quindi Ci siamo dentro ancora. Ci siamo dentro così con tutte le scarpe e i piedi, direi. Un'ultima cosa, non volevo tralasciarla perché insomma la reputo anch'essa, come tutta d'altronde la discussione che abbiamo fatto fino adesso, molto interessante, ed è relativa ad un altro articolo che compare nella numero 23 di Zapruder, quello di Vincenza Perilli, da Donnelly a Gramsci, toponomastica e memoria coloniale a Bologna, insomma credo nella migliore tradizione della nuova storia politica, per la quale insomma monumenti, epigrafi e toponomastica sono certamente da annoverare come fattori dai quali filtra comunque una memoria. Più che altro insomma io volevo anche dire a te, visto che anche tu abiti qui a Roma, che questo discorso può essere benissimo essere trasposto alla nostra città. Hanno avuto il coraggio, una volta sconfitto il fascismo, e probabilmente non potevano fare altrimenti perché insomma il vento della resistenza lo imponeva a quel punto, di cambiare la toponomastica, quella insomma più ispirata appunto al ventennio, per cui no, sappiamo che piazzale Adolfo Hitler è stato ribattezzato ai partigiani, oppure viale dei martiri fascisti che è divenuto viale Bruno Buozzi, ma insomma permane ancora tutto questo quartiere africano, no? Certo, certamente, ma guarda, il discorso sulla toponomastica era appunto uno dei discorsi che volevamo affrontare e che nasceva un po' dalla riflessione su appunto il discorso sui luoghi, diciamo, i luoghi e la memoria, il modo in cui la memoria si attacca poi al quartiere, alla via, alla strada, perché è successo qualcosa di specifico in quel luogo, perché è stato connotato in maniera particolare in un certo periodo storico. La nostra idea, l'ambizione almeno, era quello di farlo su più città, perché chiaramente il caso romano è eclatante, insomma. Però purtroppo la cosa più si è un po' ristretta, nel senso che alla fine le forze che avevamo a disposizione non erano molte. Appunto Vincenza Perilli, abitando a Bologna, ha scelto di fare questo tentativo, mi sembra molto riuscito, sia per l'attenzione con la quale lei insomma ha analizzato i percorsi di memoria, sia per le ipotesi che ha fatto su questo lavoro, che chiaramente mettono in luce anche il discorso, anzi questo articolo più di altri mette in luce proprio quel divario di memoria tra colonialismo liberale e colonialismo fascista, che è appunto un discorso che emerge abbastanza bene insomma da questo articolo. E certamente la toponomastica e la sua rielaborazione e revisione ha a che fare poi con le storie delle città, chiaramente Roma ha la sua storia, mentre Bologna insomma è legata a un vissuto, una partecipazione molto forte dentro la resistenza, quindi chiaramente è un percorso insomma diverso. Detto questo, appunto c'è il riferimento alla Cirenaica come appunto sicuramente un legame con quell'Africa insomma, diciamo, amica e colonizzata, però in maniera non intrusiva, che insomma sono percorsi di memoria, e quindi invito chi ci ascolta ovviamente poi a leggere gli articoli, perché chiaramente oltre a un discorso generale che possiamo fare noi due per raccontare come è stato il lavoro, poi ciascun articolo in realtà mette in luce aspetti differenti, proprio perché ha a che fare con rappresentazioni e rielaborazioni di memoria che passano attraverso veicoli appunto diversi, e quindi chiaramente le fonti, che sono state fondamentali per questo lavoro, come sempre per chi lavora sul piano storiografico, hanno poi messo in luce aspetti diversi, chiaramente. Poi ogni autore, ogni autrice o coppie di autrici hanno dato vita insomma a, diciamo, lavori con sfumature diverse. Tra l'altro un altro, ma insomma ovviamente da menzionare sarebbero tutti, dal lavoro sui fumetti di Emilio Cavalleris al già citato lavoro di Sonia Sabelli sulle rappresentazioni del corpo femminile nero, al modo in cui Vabbè, anche il discorso sulla diaspora eritrea, l'intervista a due donne, Domenica Ghidei Bidu e Elisabetta Agos, fatta da Sabina Marchetti e Barbara De Vivo, insomma sono gli aspetti, forse anche le curiosità rispetto a questo argomento, quindi alla memoria del colonialismo, sono veramente tanti, e quindi chi ha voglia, chi può, insomma, ovviamente vi aspettiamo sabato alla Casa delle Culture alle 17:30, presenteremo la rivista e discuteremo con alcuni storici e storiche che interverranno, e presenteremo appunto la rivista. E così. Va benissimo, è stata una chiacchierata davvero interessante. Volevo appunto concludere facendoti lanciare l'appuntamento di sabato, ma l'hai già fatto tu, per cui insomma mi hai anticipato. Grazie Elena, grazie davvero. Grazie mille, grazie a voi. Ciao. Ciao.